Dal diario d'un innamorato, canzoni d'amore in prosa. Io t'amo tutto il giorno che è così lungo. Io t'amo la notte, molto troppo corta. Quando nelle mie braccia non ti tengo così, credo tu possa sfuggirmi. Ascolta, io ti voglio avere sempre. Voglio che a nessuno tu sii cara. Io odio che tu parli con gli altri, non devi essere vicina a nessuno, perché tu sei mia, ed io su di te ho un diritto. Tu appartieni all'anima mia, al mio corpo. Ti voglio avere la tua anima e il tuo corpo. Ti voglio, per l'eternità. Con la testa china, le mani incrociate sul seno, te ne stai freddolosa davanti allo specchio. I tuoi capelli biondi sono rialzati sulla nuca, dorata di peluria aureola, al tuo corpo giovane e snello. Non rassomigli al marmo morto, nemmeno all'alabastro malaticcio incolore, no. A calici di fiori viventi, bianchi con venature di pallore roseo. Mi tormenti più di quello che tu non voglia, anche quando mi vuoi far del male. Sei l'eterno mutare. Ed io voglio un riposo eterno. Tu sferzi i miei nervi con la tua impazienza e la tua voce, mutevole come lo scrosciar della pioggia, martoria il mio cervello. Perché non puoi parlare come la fonte, monotona e dolce? Io ho paura di ogni parola che dici, non mi sento mai sicuro. Sei come la rondine che vola via e ritorna, ma che non trova mai pace nel suo nido. Perciò mi piaci quando cadi stanca nelle mie braccia e quando mi guardi con occhi semichiusi che implorano pace. Perciò appunto amo il tuo capo quando si appoggia sul mio petto e tu respiri profondamente e tranquilla e ti addormenti quieta come una bambina. Nel sonno le tue guance si tingono di rosso, la tua bocca si schiude lentamente e la tua mano tiene stretto il mio vestito, come una mano di un bimbo la coperta della culla. Allora mi chino su di te e ti bacio la bocca, calda e fresca, e desidero che tu possa non più svegliarti e che tutti e due possiamo addormentarci. Io non ti ho mai amato con maggior passione di quando sei stata malata, quando te ne stavi sdraiata tanto tranquilla ed eri felice di tenere la mia mano nella tua, quando ti quietavi mentre la mia mano ti sfiorava dolcemente la fronte, quanto sorridevi nonostante le sofferenze, quando per un fuggevole istante aprivi gli occhi per richiuderli sulla mia immagine. Credo che tu mi ami, altrimenti non mi vedresti. Credo pure che tu menta, perché tutte le donne mentiscono. Ma se ti colgo a dire una bugia, allora me ne vado per la mia strada. Per questo tendo dei lacci al tuo piede e li rimuovo. Se tu dicessi oggi devo morire, io sarei lieto ed accetterei la morte dalla tua mano. Vorrei una cosa sola, che tu regrassi la mia mano mentre cesserà il battito del mio cuore e quando tu vedessi lo spegnersi dello sguardo dovresti soffocare l'ultimo respiro in un bacio. Dammi la morte, ma non allontanarmi da me, che io non debba vivere e vederti con un altro. Sperare che tu offri il tuo corpo alle carezze ad un altro, che doni ad un altro il suono amoroso della tua voce. Il mio tormento renderebbe vile e misera l'anima mia. Non avrei altro pensiero che saperti ebra di gioia nelle braccia di un estraneo. Venni per dirti addio, volevo tentare di affrancarmi e ti trovai raggiante come un giorno di primavera e mi sorridevi e il tuo sguardo posava su me più caldo che mai, e la tua voce era chiara come la luce del sole, e le tue parole erano per l'appunto le parole che amo. Mi pareva che tu fossi più mia di prima. Venni per dirti addio. Volevo essere libero. Sono legato fino a che mi darai la libertà, e quando mi affrancherai sarò ancora sempre tuo. Eri stata da me. Ti aiutai a salire in carrozzella. Tu sporgesti la testa dal finestrino dandomi, sorridendo, la mano e mi dicesti: sei felice con me. Tu sapevi che non ero felice, ma non sapevi che l'anima mia è tutta un solo dolore grave e grigio per causa tua. Mi addormento con esso la sera. Esso pesa per me. Nei sogni così che mi sveglio con quell'oppressione, e non ho voglia di alzarmi, e preferirei molto rimanere tranquillamente sdraiato, senza pretese. Perché ti vedo sempre come ti vidi quella sera, quando te ne andasti da me, e nel lasciarmi mi domandasti se ero felice, perché mi sforzi ad essere felice con te, mentre te ne vai lungi da me, lungi verso tutto ciò che non è mio, che per l'appunto mi è tanto odioso. Tu sei il mio dolore profondo. La mia vita ti appartiene e io non vivo e non posso nulla che io non viva o pensi in te o con te. Tu sei il tutto nella mia vita, ma la tua è come il seme dei fiori che il vento prende e disperde lontano. Io siedo solitario nella fantasia, divido teco tutto quello che è mio, mentre tu sei lungi da me, distratta da mille cose diverse ed estranee. Dovrei avere la tua vita come tu hai la mia, e non ho che i tuoi baci frettolosi e i pensieri che ti avanzano. Ogni qualvolta vieni da me, vieni preoccupata da tutte codeste cose, ed ogni qualvolta te ne vai, vai per farti riprendere di nuova da esse. Tu vuoi quelle cose come vuoi me. Io non voglio che te sola. E se tutto come quella sera te ne vai e domandi se sono felice, sarei felice che qualcosa precipitasse allora su noi due e ci uccidessimo. Questo è il dolore profondo che è disceso su di me. Vedo il sorriso che si disparte da me e scompare mentre son solo. Ricordi quella sera d'estate quando passeggiavamo in carrozza fra i colli coperti d'abeti? L'aria era morbida e mite, satura del dolce profumo dei succhi d'abeto. Tu riposavi sul mio braccio e noi guardavamo verso il cielo stellato, profondo e buio. Il cocchiere rigido dava a cassetta ed i cavalli trottavano tranquilli il ritmo monotono. Altro suono non v'era intorno a noi, lo spazio infinito e i colli con gli abeti solenni. La nostra carrozza era l'unico punto che si muovesse in quella riposante grandezza. Allora tu ti stringevi a me e mormorasti con le braccia avvinite al mio collo: dobbiamo stare fedelmente uniti, guarda, non siamo quasi nulla, dobbiamo camminare insieme con la mano nella mano per non perderci e rimanere soli. Ora tu sei lontana ed io sono solo.